בלו טיים. בלו טיים. בלו טיים. Mercoledì 17 ottobre 2012, buonasera da Agostino Spalaore e buonasera anche dal mio fedele compagno. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Sento rumori di... Ma è bello, sono nella fossa di leone, si stanno preparando per il gruppo delle 22 a Rock Wave. L'accordo, stanno facendo gli accordi, è bello, è musicale, è radio, è rock, quello è 100%. È 100%. Allora, sono le 21.06, questa sera sarà una serata lunghissima, abbiamo 3 ore da stare insieme, ma con 2 band. La prima si chiama The Regal, ci stanno ascoltando, o meglio, abbiamo in linea il chitarrista e il vocalist, cioè Andrea Ballaramenti. Ci sei Andrea? Sì, ci sono, eccomi. Ciao, ciao Andrea. Ben ciao. Arrivato a Blu Radio Veneto, ben sentito, meglio dire. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Prima di cominciare i nostri soliti dati, e cioè il nostro numero telefonico in studio, lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms è il 346 2320 033, e poi ancora vi ricordo le nostre frequenze 88700 e 94600 MHz in modulazione di frequenza, il nostro sito www.bluradioveneto.it, lì ci potete ascoltare in streaming 24 ore su 24, semplicemente cliccando sulla scritta appunto ascolta la radio, e poi ci trovate tutte le informazioni inerenti alla nostra regione, cioè il Veneto, ma anche informazioni per quanto riguarda altri artisti e anche fatti e cronaca, insomma un po' di tutto sul nostro sito lo trovate tranquillamente. Detto questo, io direi di lasciare subito la parola ad Andrea e a Maurizio, ovviamente, insomma, che tu sei il conduttore, insomma, di questa intervista telefonica con The Regal, e io mi ritiro un po'. Vi lascio. Caro Andrea, siete stati scoperti grazie a un rock contest di una nostra, di una radio famosa, Contro Radio Toscana. Siete dalla Toscana, quindi da Firenze, e grazie alla Bass Supreme, che è un'etichetta alternativa molto interessante, vi ha levato dall'oblio, nel senso positivo del termine, e questo trio un po' sconosciuto, decisamente sconosciuto, ha fatto un disco molto molto bello. Complimenti Andrea. Beh, mi fa piacere, complimenti, si apprezzano sempre. Decisamente. L'idea di fare questo trio, Andrea, come ti è venuta, visto che tu scrivi tutti i pezzi e dai l'input a tutta la band? Ma l'idea non viene, diciamo, come sono come le cose belle, non si chiamano mai, quindi si suona, ecco. Io ho conosciuto questi due ragazzi tramite il nostro studio, che ormai lo gestiamo esclusivamente noi, e quindi è nato tutto in questo modo. Quindi abbiamo cominciato a suonare come tutti, e poi abbiamo fatto un percorso e abbiamo visto che insomma si cresceva insieme e si sviluppava quello che era appunto la linea melodica e tutto quello che c'è intorno, insomma. Quindi, sì, esattamente. I pezzetti di vita di ognuno di noi. Certo, perché voi avete dichiarato: siamo veri, portiamo sul palco i nostri sentimenti, tutto quello che proviamo è stampato sulla nostra faccia. Chiarissimo. Sì. Ma non lo so. Io cerco di dare sempre il meglio, ecco. Diciamo che è difficile creare l'atmosfera. Non sempre ci si riesce quando si suona, quindi spero che a qualcuno arrivi, insomma, almeno un po' a quello che sentiamo noi sentiamo davvero tanto, ecco. E fate sentire anche davvero tanto agli ascoltatori. Io ho sentito il vostro album, sono stato pienamente soddisfatto, e anche ad Alberto Prisco, il nostro direttore artistico, che vi ha voluti. Purtroppo siete lontani, quindi c'è l'impossibilità di venire tecnicamente qua, però vi abbiamo avuto e stiamo avendo telefonicamente per parlare di questo bellissimo disco, parlare di questo vostro mondo musicale che parte dai REM, sorvola altri lidi, ma è assolutamente vostro. I REM sono solo dei riferimenti, degli input per costruire la vostra musica. Sì, sono tutti riferimenti che stanno dall'altra parte dell'oceano. Esattamente. E quindi sembra un po' strano, ma alla fine sono cose molto autobiografiche, o comunque che riflettono la società o la non società di questo, di questa terra, non di quella lì, quindi certo ecco, sono due cose completamente diverse, tranne che lo stile e la lingua, ecco. Chiaramente la band è formata da tre persone, oltre a te che sei il vocalist, e poi c'è la batteria di Manuel Pio, batterista forte, ha un bel trasporto, chiaramente il basso di Alessio Conson. Sì, siamo molto elementari, sì. Il rock è elementare, sì. All'inizio, poi si sviluppa, Andrea. Sì, infatti. Il disco l'abbiamo pensato, ecco, comunque sia, non poteva essere soltanto basso, chitarra e voce. E voce, chiaramente. E batteria. Comunque sia, è sempre molto, molto elementare anche il disco. Abbiamo cercato di riuscire a creare un'elementarità che stesse bene appunto al disco e a noi stessi. Certo, avete inciso per un'etichetta. Grazie a Samuel Casale, questo lo devo dire. Lo ringrazio perché c'è la coproduzione sua, insomma, ci ha aiutato molto a guardare dove noi guardavamo. Ecco, hai detto una cosa giusta, a guardare dove avevate deciso di vedere, di intraprendere, di sviluppare il discorso. Sì. E poi l'etichetta è un'etichetta alternativa che ha sempre portato avanti un discorso di indie, ma indie fatto bene, indie di qualità, a Bass Supreme. Sì, devo ringraziare anche lui, visto che ci siamo. Chiaro, è giusto. E Andrea Sbaragli, e grazie a lui che ci ha notati appunto Radio Contest, sì. Sì, è tutto nato da lì. Lui ci ha detto che c'era la possibilità di collaborare appunto con Samuel Cataro, che oggi si chiama The King of the Opera. Esatto, adesso ha un altro nome, The King of the Opera, però è Samuel Cataro, in ogni caso sempre lui. E quindi niente, abbiamo sfilato insomma le 9 canzoni del disco, perché abbiamo qualche canzone, è stato difficile sceglierne 9, cioè praticamente pezzi per un altro paio di dischi, quindi. Ah, già pronti, Andrea? Ma già allora, nel cassetto, pronti, nel cassetto che, insomma, oggi è un anacronismo puro. Sì, certo, non hai la possibilità di stare dietro alle pubblicazioni, alle burocrazie del disco, quindi. Però comunque sia, la cosa importante è continuare a scrivere e essere vivi in questo senso. Bene, allora Andrea, apriamo la cosiddetta finestra, come noi facciamo. Noi della redazione qui di Blue Radio Veneto, di Rock Wave, abbiamo scelto il primo pezzo, The Calling of Loneliness. È un pezzo molto bello, molto trascinante, molto americano, anche se è stato scritto, arrangiato, prodotto, ideato a Firenze, Andrea. Sì, è stato ideato a Firenze, sì, infatti. Sono quello che si diceva prima. Sì, sono, esattamente. Sono il sound della, diciamo, non so, West Coast, insomma. Sì, la West Coast riveduta e corretta in Toscana. Poi alla fine io ecco, scrivo e poi cerco di balbettare la mia vita su queste canzoni. Bene, Agostino, cosa dici? Facciamo partire. Sì, io sono pronto, se tu dici facciamo sì, ascoltare okay. la traccia che apre il disco di quest'album, che si chiama proprio come il loro stesso nome, cioè The Regal. Thank you. Time. Blue Time. Blue Time. Andrea, ci sei? Sì. Che bello questo pezzo, Andrea. Questo è a California, in riva all'Arno. Sì, sì, sì. A parte io non l'ho sentita. Comunque sì, è vero. È bello, molto bello, musicale al 100%, ben arrangiato. Poi Samuel ti dà una mano notevolissima, suona tutte le chitarre, mi pare. O sbaglio? Quasi tutti i pezzi. Cosa ti ha stimolato lui praticamente? Ma lui è la parte opposta a noi. Diciamo. Sì, esattamente, è una parte abbastanza dura lui, sicuramente. Sì, sì, un po' più energico, molto energico in alcuni momenti. Direi anche schizofrenico. Sì, nel senso positivo del termine, sì, chiaramente. Sì, certo, ma non vorrei che si offendesse, ma il fatto è che io mi ha sempre incuriosito, insomma, il modo in cui... Anche duro, duro, cui, musica non semplice, sì, diciamo, che... Cattaro, abbastanza, non dico energica, ma occupa, decisamente occupa in alcuni momenti, secondo me. Stai parlando di me? No, di te. L'altro pezzo è cupo, sì, dopo lo sentiamo. Però anche lui, Samuel, qualche volta, spesso e volentieri, usa delle sonorità decisamente cupe, secondo me. Sì, difficili da penetrare. Sì. Lui è più fuori dalle righe. Diciamo. Esattamente. Quindi è questo che ci ha dato. Vi ha dato il giusto mezzo. Perché noi puntavamo sempre a, diciamo, a stare sulla linea classica, mm-hmm, sul rock classico. Ecco, e lui ci ha dato. Comunque sia, esordire è sempre difficile. Diciamo. Direi molto, molto difficile. Poi voi avete fatto un esordio positivo. Innanzitutto è un disco di gruppo, perché voi amate suonare in gruppo anche con gli altri musicisti. Sì, sì, noi amiamo moltissimo, suonare. Credo sia lì la vera chiave, insomma. Alla fine il rock è quello, e cos'è? È suonare con gli altri. La chiave di volta è questa, è sempre stata negli anni 60 il suonare, le famose jam session assolutamente senza orari. Quello è la chiave di volta del rock. Sì, devi suonare, e poi si viene a creare questa empatia che è davvero una cosa incredibile. Io non credevo davvero di poter fare queste cose, grazie anche a questi due ragazzi che ho conosciuto. Poi c'è anche Stefano Venturini, vi dà una mano, mi pare, vero? Sì, anche lui ci ha dato, ha fatto la chitarra in due pezzi, She's Rock and Roll e I Wanna Go Back to the Star, e insomma anche lui ha dato un'impronta diversa al mio solito suono. Ecco. Cioè tu hai mandato gli input e poi sono stato leggermente modificato, t'ha indirizzato, nel senso positivo del termine. Sì, è stato, diciamo, colorito da alcune persone. Ricordo, ecco, posso ricordare, certo. La canzone che abbiamo appena ascoltato, c'è un corno che è suonato da fratello di Alessio Consoli, che è bassista, c'è la fisarmonica, insomma, su un altro pezzo, insomma, bisognava colorire un po' la struttura dell'album, e quindi abbiamo fatto questo, grazie anche alle conoscenze di Alberto. Insomma, l'unione fa la forza, è fondamentale, direi fondamentale. Poi l'utilizzo del corno è bello, è la fisarmonica, tutte le idee che vengono fuori e vengono sistemate nei momenti giusti, nei posti giusti, insomma. Sì, esattamente. Ok, allora sentiamo adesso l'altro pezzo, abbiamo scelto 4, la traccia numero 2, che è un po' diversa rispetto all'apertura. Andrea, ce la vuoi spiegare un momento? Tanti ci dici il titolo del pezzo. Allora, sentita You Show Your Love, esatto. E parla insomma di gelosia più che altro, insomma, chi non ha mai pensato di ammazzare la propria ragazza per un istante, insomma. Qualche momento di così. Ecco, sì, ecco, comunque, diciamo, è racchiuso sempre nel solito albero, la solita struttura rock. Quindi... Però è abbastanza leggermente cupa, Andrea, sì, secondo sì, me. Sì, è cupa, sì, ma credo sia un po' la cosa... Un chiaro scuro, la tua caratteristica. Cioè, di solito è chiaro, però ci sono anche i chiaro scuri, praticamente. Sì, no, ci sono pezzi molto più liberi, più allegri. Certo, certo. Ne so, rock in stage, per esempio. Sì, certo. Però ecco, questi sono, sì, sono un po' più oscuri. E anche la figura oscura di questa ragazza in copertina dà dell'oscuro, non dell'oscuro, del segreto, del lontano forse, o vicino, cioè non prettamente delineata, volutamente non delineata forse. Anche lì eravamo indecisi cosa mettere in copertina e poi è uscita fuori questa cosa. Bel viso di ragazza, indubbiamente. Ha quell'aspetto non, cioè, di un po' lontano, un po' sconosciuto, quasi segreto. Sì, sì. Io l'ho rivista l'altro giorno e la vedo quasi sempre. Ah, bene, cosa t'ha detto? Però, insomma, mi piace perché da... buca, sì, ti fa pensare, possiamo dire questo. Sì, sì. Ok, sentiamo il pezzo allora, Andrea. Sì, è proprio riuscita, Bettina, mi piace molto. It's part of human loss, losing a lot of Blue Time. Blue Time. Blue Time. You shot your love, Andrea. Questa chitarra con questo eco. Mi ricordava Chris Isaak, Andrea, cosa dici? Sì. Ma in senso positivo, sempre in senso positivo. È solo un flash, assolutamente. Questi piccoli tocchi. Ma certamente, ma a me mi fanno terribilmente piacere, ma sentire questi nomi, ma che scherzi. No, sì, anche se non ero, diciamo... puntato a quello, ecco. Certo. Però questo è chitarre con questi eco, questo suono che poi si allarga notevolmente, quasi psichedelico in alcuni momenti, poi si restringe un'altra volta, Andrea. Sì, c'è proprio un mood giusto per sta roba qua. Sì, una specie di sciaffo di batteria, ecco, con questi richiami. Queste praterie, possiamo dire, molto americano, ma no, americana, un richiamo, possiamo dire questo. E l'idea di queste diverse colorazioni musicali, come ti è venuta? Immediatamente quando hai scritto il pezzo o è venuta più tardi grazie all'aiuto di Samuel, di Stefano, di altri personaggi? Ma sì, abbiamo fatto un po' tutto insieme, ecco. Alberto ha sviluppato le sue idee, noi poi ne parlavamo insieme, è stato fatto tutto in democrazia, ecco, quindi bello questo, in democrazia, giustamente. Sì, non avevamo problemi di niente. Ecco. E democraticamente i pezzi li scrivi te e poi li fai sentire ai ragazzi, come va il discorso? Sì, io scrivo in solitudine, da solo, senza nessuno tra i piedi. È l'unica cosa che ho bisogno di fare. Poi porto il pezzo in studio e lo facciamo, vediamo un po'. Ecco, poi l'arrangiamento nasce insieme a loro anche. Stasera non hai nessuno tra i piedi in senso positivo del termine. No, ci doveva essere Alessio. Me l'avevi detto, mi avevi preannunciato, però. Sì. Vabbè, ti sentirà via streaming in ogni caso. Ma sì, spero di sì. Speriamo assolutamente. Disco molto interessante, quindi costruito con che sequenza, Andrea? I pezzi li avevi già scritti o sono stati scritti... sono stati ripresi via via durante il percorso? Ma guarda, i pezzi erano già fatti, sì. Totalmente, cioè mi avevi detto prima che fatta. Per due dischi buoni, però io pensavo ci fossero stati degli aggiustamenti, qualcosa non andava, l'hai tenuto, hai sistemato un testo, quello volevo intendere. Ma in linea di massima no, abbiamo sistemato soltanto gli arrangiamenti, ecco. Quindi di cercare di esordire, insomma... con qualcosa ovviamente che è conscio al mercato, insomma, non è che puoi esordire come ti pare, ecco. Già non è difficile esordire e avere delle chance in questo momento. Questo è chiaro. Ma se voi... uno esordisce proprio con la propria totalmente con le proprie idee, non ha senso, insomma. Bisogna per forza farsi aiutare o comunque avere altre idee, perché come fai? Sì, ma non ci sono stati delle pressioni? Assolutamente no, le vostre idee sono state sviluppate e basta. Pressioni assolutamente. E appunto, quindi una libertà totale. In questo ambiente non ci sono pressioni, ecco. Benissimo. Soltanto aiuti. Esatto, hai detto una cosa giusta, molti aiuti, e quelli fanno sempre bene secondo me, perché gli aiuti fanno esperienza, chi ha più esperienza di te ti dà una mano per sviluppare certe sonorità, certi discorsi, certi percorsi da seguire, cosa dici? Sì, sono assolutamente d'accordo, ognuno deve fare quello che deve fare, bisogna dividere le cose, dalla parte artistica, dalla parte... manageriale, ecco. Sì, esattamente. E dal vivo come li sviluppate questi pezzi? Siete solo io tre o vi dà una mano qualcun altro a suonare dal vivo? No, siamo sempre in tre, e per esempio You Show Your Love l'abbiamo sentito, la facciamo in maniera molto più rock, ecco, non più... Molto più dura, soft, molto più... Sì, la facciamo, ecco, le arrangiamo ovviamente al nostro stile in quel momento, ecco, siamo in tre, ecco. Non possiamo per forza riprodurre le stesse sonorità. Ma anche i Cream erano in tre, quindi... Come? Anche i Cream erano in tre, quindi... Sì, appunto, sì, non vuol dire niente, cioè il numero non serve, non... la potenza basta anche in due persone, cioè la potenza è un'altra cosa secondo me. Esatto, alla fine basta che venga fuori bene. Esatto, che venga fuori la verità dell'essenza musicale, quello che voi pensate di far sentire al pubblico, e il pubblico recepisce immediatamente, come abbiamo recepito noi dal punto di vista del disco. Noi dal vivo non vi avevamo ancora visti, però dal punto di vista del disco siamo stati pienamente soddisfatti noi della redazione di Rock Week. Ok. Al 100%. Avete qualche data, qualche concerto? Ma guarda, per adesso di ufficiale abbiamo solo il 4 novembre sempre qui a Firenze, all'Aurora di Firenze. Certo. Comunque sempre per quanto riguarda un set acustico. Di elettrico cerchiamo di suonare, ecco, è molto difficile. Stiamo cercando di raggruppare delle date per poi poterle insomma gestire anche sul sito e su tutto il resto, insomma, per fare un po' più di polvere. Beh, tu hai detto una cosa giusta, cerchiamo di suonare, perché è difficile anche dalle vostre parti, anche a Firenze, nonostante che Firenze sia stata sempre una piazza che ha sempre scoperto l'indie, i primi dischi di Litfiba, per esempio, cito un esempio che tutti conoscono. Sì, esatto, è un po' una buca Firenze, è vero. Forse è proprio questo, dal punto di vista artistico non credo che non ha niente a che vedere con le altre regioni d'Italia, nel senso che per quanto riguarda locali e club, anche se è un momento critico per tutti. Ah, penso di sì, assolutamente. Per tutti i posti, però ecco, Firenze è davvero un po' drammatica. Beh, anche Padova, vero Agostino? Padova è mica tanto diverso. Sì, in effetti poi la situazione musicale qui a Padova non è delle migliori, insomma, si fa molta fatica a suonare se fai la musica propria. Esattamente, Andrea, fatica a suonare i pezzi dal vivo. Qui abbiamo una band che però, bene o male, cerca di suonare i pezzi loro, è come voi fate. E è importante, lo so che per motivi diversi spesso e volentieri si usa la tribute band, la cover band, però la cover band e tribute band, pur essendo bravissimi, non sono pezzi loro, secondo me, Andrea. I pezzi loro è tutta un'altra cosa. Suonare un pezzo tuo e far suonare il pezzo degli altri, pur eseguito benissimo, è un'altra dimensione, c'è poco da fare. Sono convintissimo con te, cioè, non ha senso. Cioè, sei limitato a suonare le cover, cioè, ti diverti, tutto finisce lì. Esatto, tutto anche, finisce anche lì. In questo momento io non mi diverto più neanche a suonarle, quindi sono troppo proiettato su quello che è il nostro progetto inedito e niente da fare. Andrea, ma che dici, che ne pensi? Ma secondo te sta cambiando un po' questa situazione o continueremo comunque a sorbirci sempre queste band senza nulla togliere, perché sono bravissimi musicisti, ci mancherebbe. Diciamo, cambierà la situazione o ascolteremo sempre la musica? Ecco, ma non lo so di che cosa parli. Purtroppo oggi esistono dei meccanismi, delle macchine, dei giri, dei cicli, c'è il mainstream e ci sono altre cose. Il fatto è che si è creato questo dislivello disumano che nessuno più riesce a capacitarsi. Mm. Cioè, c'è il mainstream, c'è sempre stato, ma come si fa a rendere conto a gente che vuole urlare in maniera diversa, insomma. È un po' colpa di noi, delle radio? No, non credo. Perché è un po' colpa di tutti. Un po' colpa della discografia, del peer-to-peer, della eccessiva domanda. Tutti registrano oggi. Quindi è un mercato intasato e non ce n'è più per nessuno. Hai detto una cosa giusta, tutti registrano oggi, perché è semplice, col computer si può fare di tutto, vero Andrea? Sì, sì. Però c'è una ben diversità a fare col computer e fare con uno studio assolutamente vero, con dei musicisti veri, c'è poco da fare. Sì, poi si sente, se poi non ci riteniamo questo, anche se abbiamo uno studio, ma comunque siamo umili su questo punto di vista, perché noi non siamo professionisti, siamo dei dilettanti e quindi facciamo tutto in questo senso. Purtroppo oggi devi fare tutto a 360 gradi, dalla produzione artistica all'esecutivo a tutto. Devi prendere in mano dalla A alla Z per pubblicare e produrre un disco, quindi diventa davvero difficile. Non è mica semplice. Questo è autoprodotto anche da voi o sbaglio, Andrea? Sì, sì, è tutto autoprodotto, sì. È che non è mica una cosa semplice, è una cosa no. Anche dal punto di vista economico, però ci cerca di recuperare andando ai concerti, suonando continuamente, Andrea. Sì, sì, si spera che ci sia più richiesta, insomma, io me lo auguro. Bene. Senti, facciamo ascoltare l'Hotel Napoleone. Sì, traccia numero 7, abbiamo scelto la traccia numero 6, Hotel Napoleone. Ce la vuoi spiegare un secondo, Andrea? Hotel Napoleone è un pezzo... Mm. Molto dal punto di vista temporale parlo, sì. Quindi è composto, c'è un testo molto lungo, mm-hmm. Sono molti pezzi, quindi è una, diciamo, una descrizione di una giornata o comunque sia di un epilogo di me stesso e di quello che ho vissuto, insomma. Quindi molto autobiografico. È una serie di rimini, io non vorrei fare pubblicità occulta, però è quello. È tranquillo, tranquillo. Andrea, ce l'ascoltiamo allora. Ok. Ok. Bene. Lord, I know it could be Blue Time. Blue Time. Blue Time. Andrea, queste chitarre assolutamente lisergiche, opera tua o di Samuel? Mia è di Samuel. Ah, bene, bene, un connubio perfetto, un pezzo, una cavalcata elettrica, Andrea, decisamente. Quindi questo è dal vivo, fate faville, secondo me. Sì, questo è, diciamo che è molto concentrato sul testo, ecco. Un testo che dà un certo senso, un certo peso alle cose, e poi la musica lo trascina, è vero proprio? Poi lo trascina, esatto, l'aggettivo giusto. È un pezzo molto bello, molto. Io che ho una certa età, scusa se mi permetto, mi ricorda certe cose molto note alle mie orecchie, quindi Crazy Horse, di Young più elettrico, la psichedelia americana e tante cose meravigliose, rivedute e corrette sull'Arno da te e dai tuoi amici, chiaramente, esatto. Dai tuoi compagni. Caschi bene, ma la musica è bella, quando è bella c'è poco da fare, ci siano riferimenti, non vuol dire assolutamente niente, fa parte, l'hai pensata assieme ai tuoi compagni, voi l'avete pensata, l'avete costruita attraverso i vostri amici, musicalmente parlando, il pezzo è bellissimo, dà proprio l'input, trascina l'ascoltatore, secondo me. Sì, alla fine sì, ma il fatto si torna sempre lì, ecco, non l'ha scritta Neil Young, ecco, non voglio togliere niente, diciamo, non voglio fare il presuntuoso, da qualcosa bisogna cioè da prendere, sì, ma a prendere non vuol dire copiare, vuol dire solo riferirsi, esattamente, un input e basta, poi le cose si sviluppano assolutamente autonomamente al 100%. È un percorso di suono. E lo fai soltanto suonando con i soliti ragazzi, avendo una band. Noi siamo una band, ecco. Hai detto una cosa giusta, avete una band, siete una band e si sente. La band è importante per sviluppare, per costruire, per avanzare, per allargare il suono. Sì, è proprio, sì, lo viviamo così noi. Ecco, esattamente. Non ci fosse quello. Non ci fosse quello. Ma c'è, Andrea, c'è, si prosegue, si lotta, ma si va avanti, quello è importante. Ma certo, ma sì. La più bella cosa che esista. Esatto, sì, si muore, si rinasce. Esatto, si muore, si rinasce. Blood, sweat and tears, sangue, sudore e lacrime, ti ricordi? Esatto. Senti Andrea, siccome siamo veramente quasi in chiusura di telefonica, insomma, avete qualche data dove suonerete prossimamente, prima di tutto, e poi dove si può eventualmente acquistare il vostro disco e i vostri contatti? Allora, come data l'ho già detto, il 4 novembre all'Aurora è un set acustico molto, molto soft, quindi non elettrico, e poi per qualsiasi altra cosa è tutta ufficiosa, quindi non voglio azzardare a dire niente, quindi ci aggiorniamo su Facebook e sul sito che sta partendo finalmente, che è www.therega.it, molto molto semplicemente, e niente, tutto verrà sviluppato da lì, ecco, si spera che ci siano parecchie date, ecco. Mm-hmm. Ma certo. Se io voglio acquistare il tuo disco, i tuoi concerti lo posso acquistare, Andrea? Sì, nei concerti, nei negozi di dischi, fisicamente, su ordinazione, comunque sia, ecco, non siamo Michael Jackson o altre, no? e quindi anche in via in rete, quindi in maniera digitale, su tutte le piattaforme come Amazon, iTunes, BS e via dicendo, eccetera. Andrea, ricordiamo la formazione e chi vi ha suonato nell'album. E il titolo dell'album? Il titolo è omonimo, quindi The Regal. Il nome, esattamente. Detto all'italiana, non all'inglese. All'inglese. sì, siamo io, che sono Andrea Badalamenti, chitarrista e voce, e Manuel Pio, che è il batterista, e il bassista, che è Alessio Consoli. E poi tutti quelli che hanno partecipato, spero di ricordarli tutti, Leonardo Consoli, Stefano Venturini, Alberto Mariotti e tutti gli altri il ragazzo ha suonato la fisarmonia che non mi ricordo. Ti viene più in mente il nome? Non lo ricordo mai. Per quello che ha suonato la fisarmonica. E adesso vediamo se riusciamo a vedere nelle note. Beh, in ogni caso lui si sicuramente sa chi è, chiaramente si identifica immediatamente. Mi chiedo scusa. In ogni caso l'abbiamo salutato lo stesso, dai. Ecco. È tutto lo staff dell'etichetta che vi ha dato una mano, non da poco. Sì, grazie Andrea. Bass Supreme, che ha fatto delle cose meravigliose. Qui abbiamo ospitato altri musicisti di questa etichetta, perché ci vogliono anche le indie alternative, Andrea, da portare avanti questo discorso. Bisogna essere coraggiosi, ma il coraggio qualche volta dal punto di vista musicale fa fede, e i risultati sono eloquenti. Secondo questo disco è un disco da ascoltare e da comprare, ragazzi, un grande disco secondo me. Sì, bisogna riscoprire l'individualità e l'inventiva, Andrea, anche come scusa? È anche l'inventiva. L'inventiva, sì. Bisogna fare quello che si vuole, fare quello che si vuole al costo di non guadagnarci niente, ma ci guadagna la vita. Ma che cosa sono? Capisci? Cosa stiamo a fare a mainstream se poi dobbiamo stare dietro a determinate cose. Certo. Ognuno fa quello che vuole. Certo. Andrea, siamo veri, portiamo sul palco i nostri sentimenti, tutto quello che proviamo è stampato sulla nostra faccia. Dobbiamo ribadire questa frase, Andrea, c'è poco da fare. È fondamentale. Sì, fa piacere che citare questa cosa. Terminiamo con l'ultimo pezzo. Abbiamo scelto la ballada. Io e Alberto ci siamo innamorati di questa ballada, la traccia numero 7. La vuoi presentare te, Andre? La traccia numero 7, ricordami, perché ho... Agostino ce l'ha davanti. Sì, They Got The Light In Their Eyes, che è bellissima. Okay, They Got The Light In Their Eyes, okay. È bellissima. Niente, questo è l'unico pezzo che tributo a quelli che avevano la luce negli occhi. Ecco, insomma. Esatto. Esattamente. Però ci sono riferimenti dal fatto di come era e di come è adesso, e quindi bisogna guardare avanti, non bisogna soltanto guardare indietro, bisogna guardare avanti, bisogna parlare più che altro mangiare. Noi mangiamo spaghetti, no, mangiamo diversamente da come mangiano i nostri amici lì in California. Quindi, certo. Ecco, io sono italiano, insomma, non è che voglio fare del nazionalismo, però è così, ti sto parlando in italiano, non ti sto parlando in inglese. È vero. Ciao Andrea, grazie di cuore, grazie di aver Andrea. Partecipato allora questa grazie sera. Grazie a voi, spero di venire da voi in studio a fare dei pezzi acustici. Ah, siamo grazie sempre a tua disposizione, Andrea. Qui lo studio è grande e piccolo allo stesso tempo, grande per tutti chi vogliono suonare. Stasera abbiamo Vibrida, che è un gruppo italiano, assolutamente italiano, però anche loro suonano il rock. Sì, ho visto. Il rock va sempre bene, vedi? Vi ha visto ragazzi. Ok, salutiamolo. Mantiene giovani. Ciao Andrea, alla prossima. Allora. Ciao Andrea, grazie. Grazie. Ciao.